mattina, nel supermercato di Zoom ancora chiuso. All'alba, una scala a chiocciola porta su, una botola porta giù. La saracinesca è alzata a metà, i personaggi si vedono a metà. Proprio qui in casa, io non lo so, mi assurdo, tutto questo non ha senso. Perché l'avete preso? Potevate bloccarlo, potevate semplicemente rimandarlo indietro, proprio qui in casa. Non è in casa, stai zitta, non è in casa, questa non è la casa, questo è il negozio, non è casa, è solo il negozio, hai capito? Hai capito? Il negozio è nostro, il nostro negozio non è casa nostra, abitiamo sopra il nostro negozio, non vedo la differenza proprio, non riesco a vederla. È Dio che mi ha mandato questa croce tremenda, tu sei il chiodo della mia mano, il chiodo della mia croce, Dio è stato Dio. Stai zitta, smettila adesso, dobbiamo aprire, aiutami ad alzare la saracinesca. È un'idiozia. Una completa idiozia, ed è pericoloso, lo vedranno. Non è qui. Stai tranquilla. Basta adesso! Basta. Non sono tranquilla. Non sono per niente tranquilla. Lo verranno a sapere tutti. Lo sanno già tutti. Come? Erano con me. Ma tu ti sei preso la rogna di portartelo qui a casa tua. C'è una rogna, là ci sei tu. Dio che mi ha messo il chiodo. Dio, tu! Io sono il capo. Io. Certo, il capo delle rogne, pagherai tu per tutti. Non pagherà nessuno. Quello che facciamo, che abbiamo fatto, è giusto, assolutamente giusto, e continueremo a farlo. Avresti preferito che non l'avessimo preso? Avrei preferito che non l'avessi portato qui. È giusto, sì, è giusto, Dio sa che è giusto, ma non qui, non a casa mia. Te lo saresti ritrovato qui se non l'avessimo preso, te lo saresti ritrovato, sarebbe arrivato qui. Ci avrebbe invaso e tu e io e tutti non avremmo potuto farci niente. Subire, solo subire. Non è questo che vuoi. Tu non vuoi questo, non lo vuoi, no? Certo che no, no. Apri la cassa allora. Apri la cassa. Sarà una giornata come le altre. Se Dio vuole, speriamo. Sistema la roba e stai tranquilla. Vedrai che tutto andrà bene. Buongiorno. Buongiorno. Ciao, Top. Brutta giornata oggi. È freddo fuori, è vento. Promette male. Vento e nuvole. Un temporale, forse. O forse no. Forse no. Neve, forse. Secondo me neve. Mi piace la neve. È più facile beccarli, per via delle impronte. È più facile. È solamente freddo, nient'altro che freddo. È ancora presto per la neve. Forse un temporale, quello sì. Un temporale, forse. L'aria è strana. Potrebbe essere un temporale. Mi fanno paura, ma... Diventano più furbi, però. È bello quando c'è un temporale. Bello, forte, imponente. Tu te ne stai a casa, stretta, intorno alle tue cose. Il tuo calore, sì, il tuo calore che riempie la stanza e ti protegge. La pioggia, i tuoni, i lampi, picchiano, bussano, battono, scuotono. Ma tu non apri... Sei al sicuro? Non pioverà. È tempo di ghiaccio, non pioverà. Troppo freddo. Qui si sta bene, però. Non è vero, Top? Top? Io non soffro il freddo, non mi dà nessun fastidio. Il freddo no, non il freddo, no. Anche all'officina tengo sempre aperta la saracinesca. Il freddo entra, ma non mi dà noia. Nessuna noia. Mi piace il freddo. Mi tiene attivo. Tengo sempre aperta la saracinesca io. Perché entri il freddo. Ma così chiunque può entrare. Non tutti. A volte chiudo, sono costretto. Allora chiudo, quando soffia il vento. Il vento no, il vento non lo sopporto. Neanch'io. È fastidioso. Sì, è fastidioso, ma non è solo questo, è di più. Non è solo fastidio, ti smuove. Sposta l'ordine, le cose, tutto, invade. Non lo sopporto proprio. Vuoi il solito, Top? La tua birra, Top? Sì, va bene, il solito, sì. Faccio io. Vai al banco, Zug. Prendo io la birra per il nostro Top. La solita, eh? Ecco qua. Fredda, come piace a te. Tutto a posto. Bella fredda, sì. Tutto a posto. Dove l'hai messo? Non ti preoccupare, al sicuro. Stai tranquillo. Va bene. Cosa facciamo? Non lo so. Vediamoci oggi di pomeriggio. Bisogna stare attenti. Potrebbe girare la voce. Lo sanno tutti, perché c'erano tutti. Oggi pomeriggio decideremo. Vediamoci qui Noi quattro. Solo noi quattro. I capi. Solo noi. Va tranquillo. Bevi alla mia salute. Brrr, fredda, fredda. Come piace a te. Sì. Grazie. Ci vediamo. Non sono tranquillo. Stai attento. Va bene, va bene. Ciao. Ciao. A più tardi. Ciao, Zug. Ciao, Top. Ci vediamo. Sì, ci vediamo. Segna, metti in conto. Cosa? Il solito, no? Una birra. La solita birra di Top. Il solito debito. Ha un conto lungo quanto un papiro. A forza di segnarci non si capisce più niente. Devo cambiare sistema. Fatti pagare, no? Scagliamo tutto dal conto per la moto di tuo fratello. Ansh, che è successo? Ha avuto un incidente? Ma no, no. Manutenzione. Una volta è la marmitta, una volta è il carburatore, poi le gomme, le candele, le guarnizioni. Top non prende mai soldi. Una birra al giorno è un prezzo ragionevole. Spesso due. Sempre più spesso. Quasi sempre ne prende due di birre. Una al mattino e una al pomeriggio. Sempre. Va bene, due. Che vuoi che sia? Due birre sono solo due birre. Al giorno. Ogni giorno. Fanno 730 birre all'anno, normalmente. 732 gli anni bisestili. Però non ci avevo pensato. Comunque non ci rimettiamo. Ma potremmo guadagnarci. Le riparazioni costerebbero di più, molto di più. Lascia stare le cose come stanno. Io per me le avrei lasciate come stavano prima. Una moto. Che bisogno c'era di comprare una moto? Un paese microscopico a piedi te lo fai tre volte in un quarto d'ora. Tre volte! Andando piano. Sicuro, in un quarto d'ora a piedi. No? In moto, per girare in tondo 100.000 volte al giorno. Ho fatto il conto, sai, 100.000 volte al giorno il giro del paese, inutilmente! Soltanto per farmi preoccupare. È utile. Per le commissioni. Le consegne. Così ne fa di più e fa prima. Eh già, perché noi abbiamo milioni di clienti. Quattro gatti. Uno con la moto. Ne restano tre. Un pandemonio. La verità è che lo vizi e i tuoi amici scroccano. La scuola va bene, no? E allora che cosa vuoi? Dimmelo, dimmi, che cosa vuoi? Vivere tranquilla, così non cresce bene. Ma che ne sai? Ma che ne sai come cresce? Cresce benissimo, anzi, è già cresciuto. È forte, intelligente, è autonomo, com'è giusto. Lo preferivi ammammato, ubbidiente e magari frocio? Gesù! Zitto! Non dire queste cose! Ecco, con te non si può parlare, sempre esagerato, sempre! Non lo dire mai più! Mai più! Meglio morto! Dio non vuole che vada in moto! Io non sono sua madre, sono sua sorella! Che vada in moto, ma quello no! No! Una volta li arrestavano! Una volta! Adesso c'è la tolleranza! Ma sono malati! E poi è peccato! Io non dico di arrestarli, questo no, ma curarli! Curarli, ecco, quello sì, per il loro bene! È incurabile. Che ne sai? Tu non sei mica un medico, tu. Ne ho viste qualcuna più di te. Sotto le armi, per esempio. Sotto le armi. Sotto le armi. Scrivi un libro. La mia vita sotto le armi. La visione del mondo di un soldato sulla via di Damasco. Che noia. Noia o non noia, sotto le armi conosci il mondo. L'umanità. Tutta, anche la più schifosa. Sotto le armi, i froci. Li pestavamo e facevamo bene. Erano i peggiori. Una bella lisciata e stavano a posto. Non è che guarivano come dici tu. No, non guarivano per niente. Ma si calmavano. Si rifacevano in libera uscita. Allora abbiamo organizzato le ronde. Volontari antifroci. Li beccavamo nelle stazioni, nei cessi pubblici, nelle discoteche, sugli autobus, ovunque. E li calmavamo. Giù duro, eh. Si cagavano sotto e la smettevano. Per Dio se la smettevano. Pulizia. È da quelle ronde che mi è venuta l'idea. Non è la stessa cosa. L'idea è la stessa. Pulizia, sicurezza sociale, protezione delle persone per bene. L'idea è la stessa. Adesso è giusto, non c'è alternativa. Ognuno al suo posto, a casa sua, per il bene di tutti. Buongiorno, dottore. Buongiorno, Zoom. Salve, dottore, come va? Ciao, Zoom, bene, bene, abbastanza bene. Solo vorrei... Se per quella cosa... Dopo, dottore, dopo... Questo pomeriggio, prima della riapertura, oggi pomeriggio, qui, in negozio. Sì, va bene, d'accordo, oggi pomeriggio, sì. Ma io volevo vedere... Più tardi, dottore, più tardi, non adesso. Stia tranquillo, vada pure. Come sta? A più tardi? Bene, bene. Ci vediamo. Che voleva il dottore? Zoom, Cosa voleva? Rispondi? Niente, niente. Non è vero. Ho paura, Dio mio. Ho paura perché è venuto qua. Era preoccupato, l'ho visto. Perché non mi dici niente? Era preoccupato, l'ho visto. Allora è morto. No! No. Va tutto bene. Il dottore ha dormito poco. Tutto qua. Tutti abbiamo dormito poco. Per colpa di quello. Quello che è successo, insomma. Lo sai, no? Ma che cosa vuoi? Non mi torturare. Va tutto bene. È una cosa tranquilla. Faremo quello che si deve fare, soltanto quello che si deve fare! Nient'altro. Lo consegnerete? Sì, no, non lo so. Vado in città. Ci vediamo più tardi. Zug accende la radio che sta accanto al bancone. La radio trasmette una musica. Zug prende uno scatolone pieno di cibo in scatola, lo sposta verso uno scaffale e comincia a disporvele sopra. Dalla scala viene giù Ansh. Ciao sorellina. Poligono, incontroluce. Topf, Kopf, Ansh, Zhuei, di spalle, sparano a delle sagome. Sono troppo grandi, ecco, vedi? Cosa? Le sagome sono troppo grandi, è troppo facile così. Crepa! Non serve a niente! Crepa! Crepa! Sì, sì, è vero, Topf ha ragione, troppo grandi. Persino Zhuei ci riesce, non sono così grandi. La loro struttura ossea è più piccola e poi sono più piccoli perché sono più lontani. Ed anche buio, naturalmente. E allora che facciamo? Alla testa, solo alla testa. Così serve a qualcosa, solo la testa. La testa, Zhuei, la testa! Le palle! Gli hai preso le palle! Testa di cazzo! Bravo, Zhuei, bravo! Bastardi, voglio ammazzarli tutti! Pezzetti miserabili! Curi merdosi! Va bene così, Zhuei, ora basta, va bene, basta così, bravo, calmo. Sto benissimo. È tardi. Basta così per oggi, datemi le pistole. Io me la tengo. Dagliela. Forza, Zhuei, su. Ansh, Zhuei, dammi la pistola. No, la tengo io. Non farlo lo scemo, dagli la pistola. Non chiamarmi così, hai capito? Non chiamarmi così! Va bene. Ma è vietato, è la regola. Le regole possono cambiare, vero Zhuei? Fanculo. Supermercato. Zug conta e annota. Entra Lus. 47, 48, 49, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14. Ciao Zug. 49 meno 60, 11, 14 meno 30, 16. Ciao Lus, ne mancano 5, 6. E c'è Ansh? No, non è possibile. Non c'è? Qualcuno ruba. Sei sicura? Ho fatto il conto due volte l'ho fatto, è giusto, rubano. Ma chi può essere? Quelli là, sicuramente. Ne è venuto qualcuno? No, dall'ultimo conteggio no. E allora? Non lo so, è terribile, qualcuno è riuscito a passare e ruba, addio. Ma le ronde funzionano bene adesso, com'è possibile? Sei sicura? Il conto è giusto, mancano 5 birra e 6 snack. Sicuro, ho fatto il conto 2 volte, non mi sbaglio. Loro, sono stati loro. Hai chiuso la porta? Quale porta? La tua, quella di casa tua, certo l'hai chiusa. E no. Sei un incosciente! È pericoloso! Ti entreranno in casa, ruberanno tutto e quando torni a casa ti... L'ha chiusa Topf. Sei sicura? Sì. Topf è distratto. L'ho visto che la chiudeva. L'ho visto io. No, la porta è chiusa. Se l'hai visto, meno male, sai com'è. E poi Topf lascia sempre tutto aperto. Sai com'è. E cercavo Ansh. Non c'è. Se lo vedi, diglielo che l'ho cercato. Se lo vedo. È sempre in giro con quella moto, sempre! 5 birre e 6 snack, terribile! Dai, vedrai che sta giusta! Un cavolo! Due volte l'ho fatto, due! È terribile, Dio! Tu lo sai, vero? Dai, Zug, ma non è così terribile! Sì, no! Tu lo sai, no? No! Che cosa? Come non lo sai, lo sanno tutti! Che cosa, Zug? Dai, dimmelo! No, se non lo sai, meglio così, meglio. Che hai, Zug? Sei strana oggi. Stai bene? No, proprio no. Che succede? Niente, se non lo sai è meglio. Che ora è tornato? Topf, ieri notte, a casa, dico. Ma non lo so, dormivo. Tardi, credo. L'una, le due. Le cinque. E come lo sai tu? C'era anche mio marito con lui, di ronda. Al fiume? Al fiume, sì. C'era anche Ansh? Non lo so, credo, forse sì. Kopf, sicuramente, Kopf c'era. Anche Zhuei, li ha raggiunti dopo, ma c'era anche lui, lo so, perché è passato prima, è passato di qua a chiedere se Zum era qui. No, gli ho detto, è di ronda al fiume, mi hanno mandato a chiamare, ha detto a chiamare e se n'è andato. Di corsa, terribile, l'hanno portato qui, un'ora dopo, le 5 quasi, appunto. Zhuei. No, che c'entra? Zhuei era con loro, loro l'hanno preso e l'hanno portato qui. Ma chi? Uno di quelli, sì, uno di quelli, un clandestino. Ma morto! Ma che no! Vivo, vivo, credo. Ma perché? Per fare che? Sta qui sotto? Non lo so. Qui sotto? Qui sotto, sì, proprio qui sotto. Fammelo vedere. Sei matta? È pericoloso. E perché? Sarà legato. Non mi fido, ho paura. Sono come gli animali feriti. Ti attaccano per farmi... per farti morire con loro. Ma l'avranno legato, dai, sicuramente l'avranno legato bene. Altrimenti sarebbe già scappato, no? Certo, è giusto, l'avranno, altrimenti... No, no, no, ho troppa paura. E dai, dai, su, ti prego, è legato. Dai, fammelo vedere. Non ho mai visto uno così prigioniero, così, così da vicino. No. Tu l'hai visto? No. E allora dai, andiamo. No, non voglio. Vado da sola? No, da sola no, ti accompagno. È buio. L'interruttore, schiaccia l'interruttore a destra, terzo gradino, a destra. Una luce gialla viene su dalla botola. Le donne scompaiono. La mano di Zug chiude la botola. Entra Topf. Ehi là, sono io. Servizio? Forse di sopra. Non importa, prendo una birra. Via, via. Vieni via con me. Niente più ci lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. It's wonderful, good luck, my baby. Pippiri-bri, pippiri-bri, bippi-bi-bi-bi. È un snack, una certa fame. Fame, famina, fametta. Ma ne prendo due, va. Due snack e una birra. Grazie, metti in conto, ciao ciao. Ah! Avevo ragione, una bestia pericolosa. Avevo ragione, un animale. Sono tutti animali, pronti ad assalirti per prendere il tuo posto. Hai visto? Hai visto? Sei contenta adesso? Contenta? Avevo ragione. Ma perché lo hai colpito? Perché? Non capisco perché l'hai colpito. Ma che bisogno c'era? Non c'era alcun bisogno. L'hai vista anche tu, no? L'hai vista anche tu? Ma che cosa? Non ho visto niente. Solo che aveva paura, negli occhi, aveva gli occhi pieni di paura. Brava! È così, gli occhi, proprio gli occhi. Mi ha guardata con gli occhi. Con quegli occhi tremendi, pieni di odio. No, non era paura, no, no. Era odio, un odio feroce, terribile. Io ho avuto paura, non lui. Io mi sono spaventata a morte. Io, non lui. I suoi occhi pieni di odio, per questo l'ho colpito. Per questo voleva uccidermi con quegli occhi, voleva uccidermi. Era terrorizzato. Quanto e più di te. Hai fatto male. Lui non ha colpa. Lui non ha colpa. L'odio. L'odio ha negli occhi, l'odio. Ho colpa io, colpa, forza. Dai, dillo che ho colpa io, lui è innocente. Tutti quelli come lui sono innocenti. Scappano, certo, scappano e vengono qua per salvarsi. E io? Io sono colpevole di viverci qua. Di avere una casa, un lavoro, un marito. Io come mia madre, come mia nonna. Come tua madre, come tua nonna. Mia, tua, non loro. No, no. Le loro madri, i loro padri e tutti i loro bastardi antenati. No, ce l'avevano altrove, nel loro paese. E se ora non ce l'hanno più, è colpa mia. No! Non è colpa mia! Mi dispiace! Non posso farci niente! Io in chiesa ci vado tutte le domeniche, tutte! E tutte le feste comandate! E il Vangelo lo so a memoria! E faccio la carità! E raccolgo i soldi per il terzo mondo! E i vestiti smessi per i poveri! E prego! Prego tanto io! Ma questo non significa che se arrivano loro, io me ne debbo andare! E loro devono entrare nella mia casa! La mia casa! Per rubare! Lo sai quanti furti ci sono stati qua? Lo sai? E quante volte sono venuti con gli occhi sbarrati, la bocca puzzolente, e come hanno spaccato tutto, e la droga che portano e che rovina i nostri giovani, capisci? Così loro prendono il nostro posto, ci prendono tutto, e noi, noi! Di chi è la colpa? È mia! È mia! No, non è colpa tua. Ma non è nemmeno colpa loro, vero? Questo pensi, questo, vero? Che sono innocenti perché sono dei disgraziati. Non è nemmeno colpa loro. E di chi allora? Di chi? Noi non andiamo a rubare, noi non spacciamo droga, non spacchiamo le vetrine, noi siamo civili, capito? Civili, è così, proprio così, noi siamo civili, loro no, no, no, no! E non li vogliamo, io non li voglio, nessuno li vuole, nemmeno tu! No. Che se ne vadano allora! Via, via, via! A casa loro, poveri ma onesti, a casa loro! Se è così ci sarà una ragione, ci sarà certamente una ragione! Dio lo sa! Dio? Ma cosa vuoi che ne sappia Dio? Persino lui non sa, non conosce il destino dei piccoli uomini. Non gli interessa. Ragione in grande Dio, aspetta il gran finale con le trombe, i cavalieri. Mette scena l'Apocalisse, scene di massa, grandi scene di massa, legioni con l'orologio fermo al polso, un colossal. Non gli importa niente, né di me, né di te, né di quegli altri. Comparse, siamo soltanto comparse. Dio è amore. Amore, capisci? Dio è amore. Per tutti? Per tutti. E lui? Se è fatto tardi, ho da fare adesso. Ciao, ci vediamo, devo andare a preparare il pranzo. Ciao. Ciao. Luz! Luz! Se n'è andata! Magari non è cattolico! Magari non crede in Dio! Nessuno di loro crede in Dio. Nel nostro Dio, quello vero, se n'è andata. Dio non ama chi non crede in lui. No, no, no! Pomeriggio, al supermercato, all'ora dell'appuntamento, Topf e Zoom parlano e bevono birra, aspettando gli altri. Lo sai che cos'è che mi piace, Zoom? Mm. Lo sai cosa? Di tutta questa faccenda, tutta questa storia. Noi, loro, le ronde. Mi piace la libertà. Sicuro, la libertà. Perché noi siamo liberi. Viviamo in un paese libero, democratico. Democratico! Noi siamo democratici. E democraticamente abbiamo deciso di difenderci. Salvaguardare. Salvaguardare la nostra libertà. La nostra democrazia. Noi, da soli. Democraticamente. Democrazia. Potere del popolo. Vuol dire potere del popolo. Noi siamo il popolo. Noi possiamo decidere di noi, per noi e per i nostri figli. Noi, da soli. È la prima volta. La prima volta che la sento vera questa democrazia. Vera, capisci? Non come sempre, non come al solito, che tu vai a votare e poi aspetti che gli altri decidano per te. E non lo fanno mai. E nessuno mai, nessuno è contento, nessuno. Tutti insoddisfatti. Così, così invece siamo noi. Noi da soli, a decidere, a fare qualcosa per il nostro bene, la nostra libertà. È così che si fa la libertà, proprio così. Questa, proprio questa è la vera democrazia, la nostra. Non lo so. Credo di sì, forse. Può darsi. Certo, così suona bene. Ma non mi importa se è, che cosa è. Io lo faccio perché è l'unica cosa da fare, l'unica cosa possibile, e se non lo facciamo noi, noi da soli, nessuno, nessuno lo farà mai per noi, nessuno. Io non ci credo nella democrazia, non ci credo. Per anni ci hanno illuso con questa bella parola, democrazia. Abbiamo vissuto con gli occhi spalancati e le bocche aperte dinanzi a tutte le belle parole, belle, bellissime parole che ci dicevano, e ci abbiamo creduto. E abbiamo pagato, e senza protestare abbiamo costruito quel poco che siamo riusciti a fare, quel poco, pochissimo, ma per noi, per ognuno di noi è molto, moltissimo, tutto. E ora ce lo vogliono togliere, perché? Se no siamo razzisti, e non siamo democratici. Io non lo so che cosa siamo, e non mi interessa. Sicuro non mi interessa, non lo so. Democrazia, razzismo, libertà, io sono una persona onesta. Soltanto una persona onesta che vuole vivere tranquillamente a casa sua e basta. Non è molto, ma pare di sì. E loro, quelli lassù, quelli che ci governano in nome del popolo, quelli che sanno qual è il nostro bene, quelli ora ci dicono che dobbiamo essere democratici. Io non ho studiato molto, no? Ma ho lavorato. Ho lavorato molto, fin da ragazzo ho lavorato e ho sudato e ho sofferto e sudato. Io non conosco le parole, io so soltanto le cose, i fatti. E se qualcuno viene a casa mia e pretende, dico pretende, di sbattermi fuori o di scoparsi la mia donna, io, democrazia o non democrazia, io lo faccio fuori come un criminale, perché sono criminali. Io, tu, se rubassimo, se ammazzassimo, ci arresterebbero, no? Ci arresterebbero. Dipende. Come dipende? Sicuro? Dipende da quanto sei furbo, ricco o potente. A noi ci arresterebbero. Subito, subito ci arresterebbero. Hai sbagliato, paga, in galera. A noi sì. A noi sì. Loro no. Loro non sono cittadini come gli altri. Non sono cittadini, sono stranieri. Fanno finta, ma non li arrestano. Fanno finta di mandarli via. Ma nessuno controlla, nessuno. E loro restano e continuano. E noi che cosa dobbiamo fare? Ci difendiamo. Difendiamo il nostro diritto, il nostro lavoro, le nostre famiglie, le nostre vite. Non sono come noi quelli, no. E allora che se ne vadano. O meglio ancora, come facciamo noi? Che non entrino neppure. Che non entrino. Via, tutti. prima. Prima che ci freghino tutti. Se non ci sbrighiamo, noi facciamo quello che lo Stato non fa. Ed è giusto. È giusto. Se non lo fa lo Stato, lo facciamo noi. Da soli. È giusto. E abbiamo il diritto. Questa è la vera democrazia, proprio questa. Siamo persone per bene, noi. Persone per bene. Lo sa Dio. Dio lo sa. Io non ci credo. Che lo sa? Addio. Ci credi, ci credi. Anche se dici di no. Non ci credo, assolutamente no. Vedrai, quando starai per morire, vedrai. Dio, Dio. Ti vedo, eh. Perdonami. Fanno tutti così quelli come te quando stanno per morire. Tutti. Non ci credo e basta. Vedremo. Ma sei onesto. E non rubi. Non ammazzi. Sei senza Dio, come dici tu. Non ci credi, ma hai dei principi. Ce li hai dei principi, come si dice, morali. Principi morali. Ce li hai, no? E allora hai ragione a fare quello che fai. Nessuno può dirti nulla. Nessuno ci può fare e dire niente. Capisci? Niente di niente. È nel nostro diritto. Lo è, lo è. Non ci piove, certo. È così. Fanculo i clandestini. Fanculo. Fanculo i negri. Fanculo. Fanculo i musulmani. Fanculo. Fanculo gli slavi. Fanculo. Fanculo gli zingari. E gli ebrei. Quelli sempre. E gli indiani. E i filippini. Fanculo. E fanculo i drogati. Fanculo. E fanculo i giapponesi. No. I giapponesi no. E perché? Fanno belle macchine e belle moto. E sono ricchi. Non c'è motivo, troppo lontani poi. Se la passano bene, non c'è motivo. Ah, è vero. Fanculo i froci allora. No, fanculo. Ehi, ehi. Come i froci, Ti sei convertito. Oh, va al diavolo, pistoncino aggrippato. Salame ciotto. Oh, culo grassato. Ciambellino rosicchiato. Rosicchiata la tua. No, la tua. Vieni, vieni qua, vieni, vieni. No. Che ti faccio vedere. Guarda no. Qua, guarda. No, che paura. Aiuto, aiuto. Un brutto brutto, aiuto. Un finocchione ammattito. Te lo do io il salamone, senti, senti? Ah, oh, che salamaccia, ma è un grissino! Vieni qua, vieni, vieni! Grissino un cazzo! Appunto! Una chiave inglese! È una chiave inglese! Vieni, vieni, che ti allargo la testata! Ti modifico la cilindrata, ti modifico! Ah, bene, bene, siete allegri siete! Bene, bene, bene! Io sono qua! Smettetela adesso! Facciamo in fretta, ho da fare. E non mi sento molto bene. Io ultimamente non digerisco bene. No, io dovrei consultare un medico. Ma non sei medico, Tom! Puoi sempre visitarti da solo, no? Davanti allo specchio. Ecco, sì, davanti allo specchio. Tutto nudo, con lo stetoscopio appeso all'orecchio. Molto divertente, molto. Prima o poi ti ammalerai anche tu, naturalmente. Prima o poi dovrai venire da me. Sto benissimo, io benissimo, iettatore. Meglio andare in macelleria che farsi ammazzare da te. Ma e manca ancora Svai. Quel porco. Ha ancora la pistola. Ha una pistola? Se l'è tenuta. Alla fine dell'esercitazione non l'ha voluta restituire. Era idrofobo, ce l'ha puntata contro. È pazzo quello là. Pazzo completo, pazzo. È pericoloso. Molto pericoloso. Buttiamolo fuori. Ma non si può. Sarebbe peggio. Si scatenerebbe contro tutti. E poi nei giri di ronda il più in gamba di tutti. Non gliene scappa uno. Possiamo solo controllarlo, contenerlo, dirigerlo. Altrimenti è peggio, potrebbe aizzarsi contro di noi. Mi ha già puntato la pistola addosso stamattina, dottore, sai? L'hai già dimenticato? È già contro di noi, è pazzo, è pericoloso. Ha ragione Topf, è pericoloso. Però è anche vero quello che dice il dottore. Meglio tenerlo buono, lo controlleremo meglio. È impossibile controllarlo, impossibile. Un giorno o l'altro quello comincerà a sparare a qualunque cosa si muova. Ma no, non è detto. Le ronde, la milizia, sono un canale di sfogo per lui. E così ci è utile. Io dico che bisogna eliminarlo. Come? Di notte. Durante la prossima ronda. Un colpo a buio e giù nel fiume. Senza documenti. Glieli togliamo prima. E addio maiale. Non possiamo. Non se ne parla nemmeno. Noi non siamo dei criminali, naturalmente, no. Per nessuna ragione al mondo noi siamo cittadini onesti, costretti a difendersi. Quello che facciamo, lo facciamo soltanto per necessità. Siamo costretti. Io non voglio più sentire queste cose indegne, ma più. Ashvai, ci penserò io, naturalmente. Lo curerò. Va bene, va bene. È meglio. Sì, certo, così sarà una cosa legale al di sopra di ogni sospetto. Ma cosa vorreste insinuare, a scusa? Tutti. Oh, Schweig. Ciao, Schweig, come va? Benone, non vedo l'ora. Di che? Lo sai di che, lo sai. Allora dov'è? Piano, piano, è una cosa delicata. Sta di sotto. Forza, allora andiamo. Prima dobbiamo parlare, Schweig. Parlare. Esattamente, Schweig, parlare. Hai idea di cosa sia parlare? Senti, stronzo, non ti permetto di... Buoni? State buoni! Io che paura, aiuto, aiuto! Mamma, mammina! A te ti farò vedere io, pezzo di merda, leccaculo! Leccaculo a chi? A te, leccaculo! Lascialo, lascialo, Schweig, lascialo, ti ho detto, lascialo! Molla, lascialo, una merda, lascialo! Una merda senza aria! Lascialo! Sotto vuoto! Basta così ora! Smettetela! Dobbiamo parlare di cose serie. Pazzo, pazzo! Me la fai, pazzo? Ha ragione Zoom. Dobbiamo prendere una decisione importante. È difficile, molto difficile. C'è poco da discutere. Possiamo solo eliminarlo. Nessuno verrà mai a reclamare. Zack, un colpo e via. No. Sì. È un omicidio. Non lo è. Proprio no. Assolutamente no. È giustizia. Io lo so che cosa sono quelli lì. Lo so sulla mia pelle io. Lo so io, che cosa ne sapete voi, eh? Che cosa ne sapete? Non sapete niente voi. Solo chiacchiere e paura. Chiacchiere e paura, sì, lo so io che cosa sono quelli lì. E che cosa fanno, bestie. Bestie inferocite senza pietà. Lo so anch'io, lo so. Mi hanno sfasciato il negozio una volta. Ma ammazzare. Noi non siamo criminali. Lui sì. E io cos'ero io quando mi hanno fatto... E io cos'ero io? Un ragazzino ero. Un ragazzino tranquillo. Distrutto, mi hanno distrutto, non penso che a quello. Non dormo, non posso nemmeno chiudere gli occhi. Perché nel buio, sempre in ogni buio, fino dietro i miei occhi ci sono loro. Le loro facce, le loro grida, le loro risate. E sotto, sotto a tutto questo c'è un ragazzino che piange. Distrutto. Distrutto, capite? Mi hanno distrutto. Che cosa ne sapete voi? Cosa? Cosa? Cosa? Ma questo non è uno di quelli, naturalmente, no. Non può essere, Schweig. È passato troppo tempo, chissà dove saranno quelli adesso, no? Venivano dal fiume come questo che abbiamo preso. Attraversano il fiume e vengono qui a fare le loro schifezze. Anche se non è uno di quelli, per me è come se lo fosse. Anche se non lo è, per me fa lo stesso, sono tutti uguali, io non so chi sono, chi erano esattamente. È per questo che devo ucciderli tutti. Ma non puoi ammazzare tutti quelli che incontri e che non parlano la tua lingua. Non è ragionevole, Schweig, cerca di capire. Non è possibile. È possibilissimo. Tutti quelli che oltrepassano il fiume devono morire, tutti. Ne ho già eliminati quattro. Quattro? Come quattro? Quattro. Quando? Come? Non è possibile. Noi non li catturiamo. Li rimandiamo indietro, prima che raggiungano la nostra riva. Ogni tanto qualcuno non ce la fa a tornare indietro. La corrente è più forte, se li porta via. Ma noi non ammazziamo nessuno. Muoiono da soli. Ne ho trovati quattro un mese fa. Erano riusciti a passare. Strisciavano come vermi umidi pieni di fango. Era buio, faceva freddo e loro strisciavano nell'oscurità. Ero avanti a tutti come sempre, io vado avanti e voi mi seguite. Voi eravate indietro, molto indietro, io vado avanti, io so dove andare, sento l'odore, la puzza, i respiri. È come un suono che mi picchia forte nelle orecchie a scatti improvvisi e violenti. E la testa mi pulsa, pulsa fortissimo. E io vado avanti sempre, più cresce il dolore, più mi fa male la testa, più mi avvicino finché li trovo. Li ho trovati senza vederli, solo sentendo la loro presenza. Si sono fermati, scoperti, immobili nel fango. Larve, larve schifose e vili. Il dolore era fortissimo, stavo per impazzire. Li ho schiacciati. Ho schiacciato le loro teste per non vedere i loro occhi bianchi, per non sentire quel dolore atroce. Li ho schiacciati. Erano uguali a quegli altri, avevano gli stessi occhi. Sono morti. Li ho buttati nella corrente e mi sono lavato nel fiume. Mi sono buttato nell'acqua nuda e li ho visti sparire nel buio. Mi sono lavato tutto nel buio freddo, nel buio buono, non sentivo più nessun dolore. Stavo bene. Stavo bene. Ora no. Lo sento di nuovo, quel suono, quel dolore, bisogna che l'uccido o morirò. Io non voglio morire. Voglio soltanto star bene io. Guarda Kopf fisso negli occhi con disperazione. D'un tratto Schwei si toglie la camicia e mostra la schiena. È piena di cicatrici. Mio Dio, Schwei. Rasoio. Ferite da colpi di rasoio. Rivestiti. Restare tu pure a parlare, io me ne vado. Decidete da soli, tornerò stasera. Stasera comunque lo ammazzerò. Povero ragazzo. Rovinato per sempre. È pazzo, completamente pazzo. Lo hai visto anche tu, no? Quello che gli hanno fatto. Violentato e seviziato, a 13 anni. E non si è più ripreso, naturalmente. O in qualche modo ha ragione anche lui. Erano clandestini. Non li hanno mai presi, mai. Povero ragazzo, io lo capisco. È solo un pazzo. Sei ingiusto, Topf. Vi fa comodo credere alla sua storia. È perfetta. Per scaricarsi la coscienza. Ma è vero, per Dio, lo sanno tutti. Le hai viste anche tu le cicatrici, no? Rasoiate, io me ne intendo. Rasoiate selvagge, una certa esperienza di medicina legale. Non c'è dubbio su quelle ferite. Sulle ferite no. Sulla versione dei fatti, sì. Nessuno ne è mai dubitato. All'epoca io c'ero qua. L'inchiesta fu resa pubblica. Aggressione e sevizie da parte di sconosciuti, presumibilmente clandestini passati dal fiume. Presumibilmente. Un modo per mettere tutto a tacere. Niente scandali. Un paese tranquillo. Questo era ed è ancora un paese tranquillo. Cattolico. Niente scandali. Ma cosa vuoi dire? Parli per parlare. Non hai il diritto soltanto perché ti sta antipatico. So quello che dico. E in ogni cosa la vostra pietà mi disgusta. Io non odio Schwei, ma so che è pericoloso. Perché è pazzo. Guardo in faccia la realtà, io non faccio come voi, tutti finta carità cristiana. Io sono un buon cristiano, sai? Nessuno, nessuno, nemmeno tu può dire il contrario. Nessuno! Proprio nessuno! È vero, ha ragione. Io sono un medico. Non è soltanto la fede, naturalmente, ma anche l'etica. Non solo la fede, ma pure l'etica, capisci? L'etica che mi guida perché ho giurato davanti a Dio. Agli uomini è ipocrita! Va bene, va bene, va bene. Siete brave persone, è vero. Ho esagerato. Scusa, Zoom. Scusa, dottore. È che quello è pazzo, ma pazzo veramente. L'avete visto, no? Per poco non mi strangola. Quello lì sotto lo vuole fare a pezzi e non c'è niente da fare. Tornerà, tornerà stasera. E allora, cosa faremo allora quando verrà qui per ammazzare quel disgraziato? È una bestia quello lì. Sono tutti bestie feroci quelli. In questo Schwei ha ragione, poi... E poi? E poi non abbiamo ancora deciso. Stasera. Vedremo stasera, ai voti, democraticamente. Stasera sì, democraticamente. Non dicevi così anche tu? Ti piace la democrazia, no? L'hai detto tu, l'hai detto prima. Sì, l'ho detto, sì. A sì. Stasera allora. Dopo cena, alle 9. 9 in punto. D'accordo, sì. Addio, Zoom. A stasera! Ah, dottore! Volevo dire... Beh, sì, ecco. Porti la borsa, dottore. La borsa. La borsa. Sarebbe meglio. Meglio. Meglio non farlo soffrire. Credi? Se saremo costretti contro la nostra volontà. Un atto di carità. Proprio così! Esattamente. Sicuro? È giusto. La porterò. Sera. Supermercato. Anche e Luz sono per terra fra gli scaffali. Stanno facendo l'amore. Dai! Ti prego! Dai! Zitta! Zitta! Dai! Forza! Dai! Aspetta! Aspetta! No! Subito! Sì! Subito! Sì! Sì! Adesso! Adesso! Ho fatto. E tu? Non importa. Sono troppo curiosa. Dai, dimmelo. Su, su, forza. Racconta, raccontami tutto. Ma non c'è molto da dire. Tu c'eri, no? C'eri? Sì, c'ero. Con loro? Sì, sì. E perché? Perché l'avete preso? Come mai? Di solito non lo fate. Non è mai successo. Perché l'avete preso e l'avete portato qui, eh? Ci deve essere un motivo. L'ho trovato io. L'hai trovato? E dove? Dove? È sulla riva, no? Sulla riva del fiume, la nostra. Stava lì, nel fango. Era passato allora? Sì, ce l'aveva fatta. E poi, poi dopo, tu che cosa hai fatto? Ti ha assalito. Ah, sì, sì, sì, ti ha assalito. Lo hai preso e lui ti ha aggredito come un animale ferito. Ma no, no, no, aggredito. Era più spaventato di me ed era stanco. Stanchissimo. Ansimava, per questo l'ho trovato. Ansimava forte e non ce la faceva più. Era tutt'uno col fango, un'unica massa nera di terra, un'unica massa ansimante nera, tutta nera. Solo gli occhi, soltanto gli occhi si vedevano, bianchi. Solo gli occhi. Due cose bianche alla luce della torcia elettrica. Quando l'ho visto ha gridato un urlo spaventoso, disperato, l'urlo di chi precipita. E io non me l'aspettavo e ho avuto paura. Ho avuto paura come lui. Sono scappato. Mi sono messo a correre e ho gridato. Ho gridato, volevo correre, volevo scappare, ma sono caduto nel fango, anche io, nel fango accanto a lui. Mi ha preso con le braccia. Si è stretto addosso a me, forte, forte. Ero terrorizzato, terrorizzato, capisci? Credevo volesse uccidermi. Stringeva, capisci? Ho gridato ancora e lui niente, stava lì, attaccato al mio corpo, stretto, immobile. E ho capito. Ho capito che non mi avrebbe ucciso. Ho capito che mi stringeva soltanto per tenermi fermo. Soltanto per questo, capisci? Per tenermi fermo. Perché anche lui aveva paura, come me. Aveva paura di morire. Credeva che anche io volessi uccidere lui. Allora non ho gridato più, non ho gridato. Zitto. Anche lui. Siamo rimasti così, nel silenzio. Silenzio e paura. La nostra paura. E il respiro. Il respiro forte dell'angoscia. Volevo dirglielo, ci ho pensato, volevo dirgli scappa, scappa, io non ti faccio niente, scappa, vengo con te, non devi avere paura, ho la motocicletta, scappiamo insieme, andiamo via, tutti e due da questo paese di merda, dai, forza che ce ne andiamo via, ce ne andiamo, senza paura. Mi avresti lasciata qui, mi avresti lasciata sola. Ma erano solo pensieri, migliaia, migliaia di pensieri veloci, dentro ai respiri dello spavento. Pensieri, pensieri per sfuggire al buio, al fango e al terrore. Allora non gli hai detto nulla? No, non ne ho avuto il tempo. Sono arrivati gli altri, Zoom, Topf e il dottor Kopf. E poi non so se mi avrebbe capito, probabilmente no, lui parla un'altra lingua. Non ho avuto tempo, sono arrivati e ci hanno visti. Le urla li avevano guidati e ci hanno trovati, avvinghiati, avvinghiati nel fango. Hanno creduto che mi avesse aggredito, così l'hanno preso. Vogliono dargli una lezione. Credevano volesse soffocarmi e l'hanno preso. Poi è venuto Schwei e lui ha detto che lo sapeva. Lui lo sapeva cosa volesse farmi e noi ora gliel'avremmo fatta pagare. Per lui, per me e per tutti. Ma perché non gliel'hai detto? Perché non gli hai detto la verità? Ero sconvolto. Avevo avuto paura. Ero caduto. Avevo gridato e mi ero fatto prendere. Mi vergognavo. Proprio così. Mi vergognavo a morte di dire come erano andate veramente le cose. Sono stato zitto. Ho fatto finta che avessero ragione. Così non ero un vigliacco. Così ero soltanto la vittima. Avevo ragione, anche se avevo gridato di paura. Lo ammazzeranno, vero? Ma no, no. Vogliono solo dargli una lezione. Soltanto dargli una lezione. Lo pesteranno un po'. E perché? Non ha fatto niente. Ma come non ha fatto niente? Lui non voleva farti male. Ma è passato! È passato dall'altra parte, dalla nostra parte. E non si può, non si deve. È un clandestino. Uno di quelli. Noi facciamo le ronde di notte per questo, per non farli passare. Dobbiamo proteggerci, non possono venire qua. Non possono stare qua. Ma perché? Non voleva farti niente di male. Ma perché ci siamo già noi qua, capito? Ma cosa dici? Ci siamo già noi qua e da prima, molto tempo prima di loro. E non c'è posto per tutti. Non c'è posto, e tu lo sai. Noi siamo noi, loro sono diversi da noi. Devono restare a casa loro. Questa non è casa loro, no? È casa nostra questa. E non c'è posto, Non c'è posto per quelli come loro. E lo picchieranno. E allora? E così impara. E quando lo ributtiamo nel fiume e ritorna da quelli come lui, quelli che ogni notte tentano di invaderci, lui saprà dirgli che cosa gli aspetta. Che ci siamo noi qui, pronti a fare valere i nostri diritti, e così. E così staremo in pace. Hai avuto paura? Sì. Troppa. Troppa paura. Devo essere un uomo adesso. E lo picchierai anche tu? Sì. L'ho visto, sai. Quando? Stamattina, con tua sorella. Siamo scese giù e l'ho visto. E allora? Niente. Niente. E che cosa vuoi fare? Che cosa vuoi fare adesso? Io lo sapevo che finiva così. Ha ragione Toff, quello lì è pazzo. L'ho visto subito io, all'occhio del pazzo. Non lo sopporto. Ogni volta che viene qui, sempre ordina del prosciutto. Prosciutto affettato a macchina. E mi guarda fisso. Le mie mani, il prosciutto, l'affettatrice con quell'occhio da pazzo e la testa inclinata. E quando smetto di tagliare lui dice sempre: ancora, ancora un po'. Mi piace questa affettatrice, taglia bene, molto, molto bene. Fa paura quando lo dice. Una così è pazzo, chiaramente, io lo sapevo. Il chiodo di Dio, to, sei il chiodo della mia mano, tu! Che c'è, Zug? Che succede? Diglielo tu, Hans. Diglielo tu a tua sorella che cosa ha fatto quello lì. Chi? Cioè che tutto va storto, cioè! Quello che abbiamo preso, diglielo a tua sorella che ti stava ammazzando. Non è vero. Ma che ne sai tu, ragazzina, che ne sai? Tu non c'eri. Avresti dovuto vederlo, il tuo Hans. Se non era per noi, a quest'ora era già morto. Non è vero, Hans? Hans? Hans. Sì, è vero. È così come dice Zuma. Sei un vigliacco. E perché? L'ha colto di sorpresa, al buio. Sono abituati al buio, quelli lì. Ci sguazzano nel buio. Come tutti i veri delinquenti. Sono tutti così. Hans non ha colpa. L'ha assalito a tradimento. E va bene, voleva ammazzarlo. E voi che fate? Ve lo portate a casa. A casa mia, per la precisione. Me lo portate a casa. Potevate ammazzarlo lì. Potevate ributtarlo nel fiume. Potevate sbarazzarvene subito, no? A casa. A casa mia. Potresti consegnarlo alla polizia. Non se ne parla. La polizia. La polizia se ne frega. Tempo dei giorni sarebbe libero e tornerebbe qui a vendicarsi. Buonasera, Topf sta arrivando, sta chiudendo l'officina. Ciao ragazzi, come va? Salve, dottor Kopf. Bene, adesso va tutto bene. L'hai scampata bella, Non deve essere stato piacevole proprio per niente, naturalmente, no. Proprio per niente. Naturalmente. Ma ora sto bene, E tu, piccola musona, come va? Vaffanculo. Ecco, tipicamente femminile, naturalmente. Ecco Topf. Ecco qua, buonasera a tutti, siamo pronti? Manca Svai. Meglio. Non verrà per adesso, ha detto che sarebbe venuto più tardi. Già, è vero. Dobbiamo sbrigarci. Le donne e il ragazzo, no, non è per loro. Sarà un problema. È già un problema anche senza di loro, non aggiungiamone altri. Hans, perché non vai a fare una passeggiata, Hans, insieme a Luz? No, voglio restare, ho il diritto di restare. C'ero anch'io. Anche troppo, se per questo, anche troppo. Va bene, Hans, puoi rimanere, tu. Luz, va a casa, Luz. No. Non è roba per donne. Voglio restare, ha ragione, perché? Perché non potrebbe. Ma Zug, anche tu. Anche io cosa, Cosa? Questa è casa mia, l'ha dimenticato, dottore, casa mia. E lei non l'ho certo invitata io, proprio no. Naturalmente no. Ecco, bravo, naturalmente. Luz l'ho invitata io, invece, e resta con me, naturalmente. Ma potreste aspettare di sopra. Naturalmente, lei potrebbe anche andarsene da un'altra parte, naturalmente, insieme a Topf, naturalmente, con quella croce là, naturalmente. Zuc! È forte la tua signora, Zoom, l'angelo della casa. Poco spirito, tu. L'angelo della casa è la mamma. L'angelo della casa, che battuta cretina. Va bene, smettetela, dobbiamo sbrigarci. Prima che arrivi Svai, naturalmente. Che facciamo? Andiamo giù. Andiamo a interrogarlo. Sì, certo, giù a interrogarlo, naturalmente. E andiamo. Non si può. E perché? È troppo piccolo giù, non ci stiamo tutti. Appunto, tu e Luz potreste... Non dire stronzate. Zug! Tu cosa, Andate a prenderlo, portatelo qua. Forza, Hans, andate a prenderlo, sbrigatevi. Hans e Zoom aprono la botola e scendono giù. Rumori di spostamenti, imprecazioni, lamenti. Di sopra silenzio. Ansh e Zoom riappaiono. Trascinano il prigioniero con le mani legate da una cinghia. È completamente coperto di fango secco. Di lui si vedono soltanto gli occhi di animale terrorizzato. Ecco, ecco qua. Muoviti, forza. E muoviti. Una sedia, prendete una sedia. È terribile. È disgustoso, assolutamente disgustoso. Prendi quella sedia, Luz. No! No, quella no, è la mia sedia, mi ci siedo sempre su quella. Faccio io, lascia stare, Luz, ci penso io. Ecco, ecco qua, questo va bene, qui si può sedere, è lo sgabello di Zoom. Ah, allora va bene. Sì, sì, va bene. Grazie tante, sei un tesoro. Fermo tu, sta fermo. Forza, siediti, siediti là. Non capisce, è evidente. Mister, sit down, please. Monsieur, s'il vous plaît, erbite, signor, gospodine, sai, buono, lunga lunga, niente da fare, niente da fare, non è terrestre. Oh mio Dio, troppo, riparlo ancora, è troppo divertente. Olè, signor, se vuoi sentire, non c'è la spaccio, my friend, my dear friend, ma un po' di puzzetto, maricia, la bagadula, niente da fare, sarà di Creta. Un cretino. Ah, Gesù di Creta! Ma l'hai sentito su tutte le lingue, sa, Luz? Luz, l'hai sentito tuo padre? Sì, ma non mi fa ridere per niente. Ci penso io. Guarda. Ecco. Mi sono seduto. Adesso tu fai lo stesso. E beh, dai, forza, e muoviti! Naturalmente sarebbe meglio legargli i piedi. Dove vuoi che vada, conciato così? Ha ragione Topf. Non può andare lontano combinato in quel modo. Non è vero, sorcio? Sorcio di merda? Non capisci, eh? Ma volevi venire qui a fotterci tutti, figlio di puttana! No! Questa è universale, non perché? C'è bisogno di traduzione! Non ti mischiare, ragazzina! Come perché? Ha tentato di ucciderlo, il tuo ancio, lo stava ammazzando! Ecco perché! Abbiamo dovuto staccarlo a forza! Non voleva mollarlo! Mi ha pure dato un morso! Ma aveva paura! Certo che aveva paura, aveva la coscienza sporca. E sapeva che avrebbe dovuto pagare. Guardalo, fa schifo, è ributtante. È sporco. Lo sanno tutti che si sporcano apposta. A quel che ne so io, anche quando sono puliti, puzzano. Naturalmente, cioè ignorano l'uso del sapone. È vero, sì, puzzano tutti, sempre. Secondo me è la pelle. È la pelle che puzza, di natura. E magari hanno tutti la fronte bassa di natura come criminali, vero? Non tutti, Luz, non tutti. Più spesso è protuberante, eccessivamente protuberante, o schiacciata, troppo schiacciata. È indiscutibilmente vero, d'altronde, ormai che la fisiognomica è una scienza, naturalmente. Stronzate. Luz! Diglielo, Ansh, devi dirglielo, non puoi stare lì in silenzio a guardare. No, che cosa dovrei dire? Questo qui è... è un bastardo, ecco, ecco, sì, è un bastardo. Voleva ammazzarmi. Non è vero, non è vero, bugiardo, non è vero. Topf, è meglio che la porti a casa. Sì, è meglio, va a casa, Luz, dai. No, Ansh, sei un vigliacco. Non è vero, io mi stavo ammazzando. È terrorizzato, ha paura, ha soltanto paura. Guardalo, guardalo, guardatelo tutti. È solo un ragazzo spaventato. Un ragazzo spaventato come te, Ansh. Guardalo. Luz va dietro il prigioniero e gli passa le mani sul viso, gli toglie il berretto. Il prigioniero ha i capelli lunghi, è una ragazza. È femmina! Gesù, è una femmina! No, no, ferma! Ehi, ehi, dove vuoi andare? Ragazzi, è una femmina! Sì, pare proprio di sì! Oh, è una gatta, c'è una tigre! È una tigre quella che voleva azzannarti! Ma dove vai? Oh, è vero, Top! È una gatta selvaggia! Le razze naturalmente sono tutte così, istinto puro, è pericolosissima! Via, vai via, che schifo! Oh. Ferma, ferma, è peggio così, fermati! Niente da fare, è una tigre! Attento, attento, graffia! Ah. La ragazza esausta si ferma, ansima, silenzio. La ragazza lentamente si ripiega su se stessa, raccogliendosi fino a terra. Si chiude con le mani sulla testa, piange in silenzio. Siete contenti adesso? Bravi, bravi. Uomini, eh? Uomini veri. Non c'è che dire. Proprio no. Era solo uno scherzo. Soltanto uno scherzo. Un gioco. Non le abbiamo fatto male. E la sberla? La sberla che gli hai dato? Non sapevo che era... una femmina. Non è una femmina, non è un animale, è una ragazza, è soltanto una ragazza. È colpevole lo stesso. Di che cosa, eh? Di che cosa? Di esistere? Di essere passata. È una clandestina. Sì, è così, naturalmente. È pericolosa, vero? È questo che vuoi dire. Voleva ammazzarti, no? Questo mostro terribile ti stava stritolando, vero? Vero? No. Aveva soltanto paura. Paura. Mi stringeva. Mi stringeva forte perché aveva paura. Come me. Non credo. Non credo sia così semplice. È un casino. Comunque è un casino. È sporca. Puzza. Non dobbiamo lasciarci prendere da facili patetismi. È una clandestina. Va bene. Ma è solo una ragazza. Onestamente mi pare eccessivo, dottore. Sì, eccessivo. Bene, bene. Ha ragione Topf. E Lus anche. Loro hanno ragione. Sono pieni di buoni sentimenti, è giusto, sì, è giusto, va bene così. Lasciamola andare, lasciamola libera. Qui, a casa nostra, finirà per andare a battere sulle strade, a spiattellare figli spuri, e scriverà forse, telefonerà forse, comunque di là, dall'altra parte, lo sapranno naturalmente, lo sapranno tutti. Via libera le donne! Gli uomini attenti, ma le donne via libera. E così, così verranno in tante, tantissime, tutte, un'invasione di puttane. E se le donne sì, se le donne possono, perché non i bambini? Bene, sì, certo, naturalmente, i bambini, centinaia, migliaia di bambini, emigranti, clandestini, tutti qua, per le strade, tanti, tantissimi, bei, piccoli bambinotti rosei, sorridenti, belli, naturalmente, di tutti i colori, e naturalmente diventeranno sempre più affamati, sempre più rabbiosi, sempre più brutti. Sì, naturalmente saranno tanti, tanti piccoli, feroci, disperati, criminali, naturalmente disperati, spietati come bambini delle favelas brasiliane. Bene, ottimo, perfetto, lasciamola andare. È terribile. È terribile, ha ragione. È un bastardo, dottore, lei è un bastardo nazista. Lus! No, no, Topf, non è necessario, per me non è un'offesa, naturalmente. Dio mio, dottore, che dice? Sta zitta tu, sta zitta! Per me lo è. Per me no. Sei uno stupido, Ansh. Soltanto uno stupido. Io non sono un assassino. Nessuno di noi lo è, nessuno. Siamo brave persone. Sì, è così. È paura la nostra, soltanto paura. Anche lei ha paura. Lei non è come noi. Sì, è vero. Non è come te. Ottuso, piccolo, vuoto, inutile. Lasciamola andare. Sì, papà. Ma è... Propongo di lasciarla andare. Siamo venuti qua per decidere. Ai voti. Votiamo. Tutti. Io non lo so. Io sono contrario. Saremmo complici. Almeno ributtiamola nel fiume. Anche io sono contrario. Ributtiamola nel fiume. Morirebbe lo stesso. E così invece... Ci proverà. Ci proverà. Ho paura. Ho troppa paura. Ma ucciderla... Ucciderla no. Non posso. Dio non vuole. Tu è il tuo Dio. E va bene, d'accordo? Sei in minoranza, dottore. 4 favorevoli. 2 contrari. È libera. Lus, mandala via. Non è valido. Lus è minorenne, per legge non può votare. È lo stesso. 3-2. È la stessa cosa. È libera. Lus, mandala via. È di corsa. Lus si avvicina alla ragazza, le prende le mani e cerca di farla alzare. La ragazza è spaventata e reagisce contro. Lus le spiega le mani. La ragazza capisce. Lus la lascia. La ragazza esita. poi di scatto scappa via. Si sentono i passi di corsa, il ritmo dei passi si spezza, d'improvviso. Svai, il nostro amico Svai. No, Dio. Mio Dio, perdonalo tu. Se c'è, che ci perdoni tutti. Ma non c'è. Per noi no. C'è vento stanotte. Covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath the golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. Ask for you, I who have no need. it so fiercely now when you know that you are not sure.